wi kalla hey lamma yaqdi tawa non kañum oɗo neɗɗo o timminali ɗon o timminali taho ma amarahu konko Allah on yamirimo ɗiɗo piji ɗi Allah on waɗɗini e makko tawa o timminali ɗi ka hay goto wata wadde ɗi fuu tawa fuu timmi ko ɗaɓɓirakon fuu.